capaci di essere unici sotto le gioie e i lamenti dietro la nebbia dei giorni. Già c'è un incubo tranquillo.